416. Carciofi in salsa. Levate ai carciofi le foglie dure, spuntateli e sbucciatene il gambo. Divideteli in quattro parti o al più in sei se sono grossi. Metteteli al fuoco con burro in proporzione e conditeli con sale e pepe. Scuotete la cazzaruola per voltarli e quando avranno tirato a sé buona parte dell'umido, bagnateli con brodo per cuocerli del tutto. Levateli asciutti e nell'intinto che resta versate un pizzico di prezzemolo tritato, un cucchiaino o due di pangrattato ben fine, sugo di limone, altro sale e pepe se occorrono. E mescolando fate bollire alquanto, poi ritirate la salsa dal fuoco e quando non sarà più a bollore aggiungete un rosso d'uovo o due, secondo la quantità, e rimettetela per poco al fuoco con altro brodo per renderla sciolta. Versateci i carciofi per riscaldarli e serviteli specialmente per contorno all'esso.